tutto su di me. L'idiota e l'arcobaleno. Scarafaggi, fermi! Vi adoro. La senti questa pioggia? Microbi in orbita. Occhi bucati sotto. Scheletro. Veleno di rospi. Case che volano. Puzzo di vecchio. Tutto su di me, come la pioggia. Tutto su di te. La senti questa pioggia? Dentro il tuo inverno, a caccia di stelle, vado. Tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic,